La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, allora settimanale di cinema di Radio 24, come sempre puntuale qui il sabato e la domenica. Weekend al cinema con molte novità, con qualche colossale e tantissimo cinema italiano. Andiamo subito a sentire i titoli di testa. Ancora la storia di un amore impossibile per Robert Pattinson, la stella di Twilight, che torna con Come l'acqua per gli elefanti. Al suo fianco Reese Witherspoon e Christopher Waltz, un film che rilancia la grande epica dell'arte circense. Il pastificio Tammaro decide di modernizzarsi lasciando tutti gli operai a casa e così Carmine, Enzo e Bandula si improvvisano artisti contemporanei. È la storia di Senza arte né parte, divertente commedia con Giuseppe Battiston, Vincenzo Salemme e Donatella Finocchiaro. Due topografi invitati su due versanti del Monte Rosa per ritrovare i confini perduti tra Italia e Svizzera. E una mummia che diventa l'oggetto del contendere. È La misura del confine, film no budget, scritto e diretto da Andrea Papini, il regista ospite alla Rosa Purpurea. Primo Ciak a Bologna per il mediometraggio Vai col liscio, il film a costo zero di Pierpaolo Paganelli, con Valerio Mastrandrea, Andrea Mingardi e la partecipazione di Raul Casadei. Un horror sui generis, dove la musica folk romagnola tiene lontani gli zombie. E beh, abbastanza promettente devo dire questo ultimo esperimento, ne parleremo più in là con la nostra Chiara Pizzimenti. Allora siamo al primo dei film che abbiamo scelto per questo fine settimana ed è un film che a Venezia, l'ultima mostra del cinema di Venezia, ha fatto davvero furore. Stiamo parlando, e furore mi sembra la parola giusta, stiamo parlando di Machete di Robert Rodriguez. Robert Rodriguez che come sempre viene associato alla scuderia Tarantino, tanto per intenderci, grande cast: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Robert De Niro, Lindsay Lohan, c'è davvero di tutto e di più, Steven Seagal, eccetera eccetera, ed è un film straordinario per azione e anche per una sua forte identità politica, perché questo Machete, che non è solo un'arma ma è proprio il personaggio del protagonista del film, è una sorta di vendicatore che, come chi vedrà il film capirà, non si limita solamente a menare le mani, ma insomma ha tutto un progetto alle spalle. Allora andiamo a sentire subito una prima clip, tanto per entrare un po' nel clima. Sentiamo. Su, in piedi. Maledizione, April. Il mio socio ha una bassissima tolleranza per le stronzate. Negli ultimi 6 mesi è la seconda operazione che ho dovuto annullare perché ti sei messa di mezzo. Te l'ho detto 1000 volte. Se ti serve qualcosa, vieni dritta da me. Non comprarla in questi postacci. Hai qualche cosa da dirmi? Scusa, papà. Avete capito che fa piuttosto caldo, insomma, in questo film. La storia appunto di Machete Cortés, questo straordinario attore Danny Trejo con un volto butterato che è tutto un programma, un mercenario che dovrebbe eliminare, secondo i piani, un senatore corrotto interpretato da Robert De Niro, ma viene tradito e rimane ferito durante questa missione, e lì parte la sua vendetta, che è fatta di tanti duelli, di armi proibite, ma anche di tantissime belle donne. All'origine c'era un trailer, un finto trailer che Rodriguez realizzò per Grindhouse e che adesso è diventato appunto un film. Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ti è piaciuto Machete, Boris? Assolutamente sì, caro Franco, veramente un piccolo gioiello, uno di quei gioielli grezzi di Robert Rodriguez che tanto piacciono agli amanti del genere. Allora, è una storia, come dicevo prima, che ha una sua doppia lettura. Da una parte c'è lo spettacolo tarantiniano, rodriguessiano, fatto di quegli ingredienti, di quei colori saturi, di quei duelli incredibili, eccetera. Ma questo Machete è un personaggio, come dicevo prima, anche con una dimensione politica. È un personaggio che esce dal vendicatore e basta, ma che ha con sé proprio una sorta di programma di vita, se vogliamo. Assolutamente sì, Danny Trejo intanto diciamolo che ha una faccia d'avanza di galera e detto fra noi lo è, nel senso che ha avuto una vita molto molto difficile. Qui si racconta a attraverso il divertimento del cinema di Rodriguez, anche lo splatter del cinema di Rodriguez, e il fatto di amare tante belle donne come Jessica Alba, Lindsay Lohan, Michelle Rodriguez, il racconto dell'immigrazione, del confine tra Messico e Stati Uniti, in cui ci sono tanti orrori, in quel caso veri, che Danny Trejo, diciamolo, combatte a modo suo, combatte armi in pugno, combatte con la sua grinta, con la sua ferocia, con la sua cattiveria, ma anche con la più classica veste dell'eroe vendicatore. Rodriguez, parlavi di Tarantino, possiamo dire che laddove Tarantino strizza l'occhio al genere, lui te lo fa nero. E questa è sostanzialmente la situazione, con tutto però il divertimento, la capacità di andare a pescare nelle parti profonde dello spettatore, che ha Robert Rodriguez. Quindi assolutamente un film di genere tra i migliori che Rodriguez ci ha confezionato. Perché fai finta di venire qui solo per il caffè? Non faccio finta. Il caffè mi piace davvero, schifoso e unto. Io posso rifiutarmi di servire chiunque. È la regola americana. Sì, per i veri cittadini. Ce l'hai i documenti? Gli stessi dell'ultima volta, tesoro. E della volta prima. E della volta ancora prima. Tu ce li hai, i tuoi? Gli stessi dell'ultima volta, tesoro. Pensi di fare una cosa giusta? Sbattere dentro i tuoi fratelli e sorelle? Deportarli di nuovo nel loro inferno personale? È la legge. Macete di Robert Rodriguez, film da non perdere in questo fine settimana, film che troveremo sicuramente nella top 10 della classifica del prossimo weekend, chissà in che posizione, non è facile capirlo perché c'è Thor, che è partito fortissimo in testa alla graduatoria degli incassi in Italia con 2 milioni e 8 nel primo weekend, e quindi davvero un'ottima partenza per il film di Kenneth Branagh. Al secondo posto permane Rio, il cartoon del pappagallino sta volando molto molto alto. Terzo posto per il sorprendente e positivo Source Code, ma già con un incasso nel weekend più basso, intorno ai 760.000 euro. Quarto per la commedia italiana Faccio un salto a L'Avana, scende al quinto posto Bemus Papam di Nanni Moretti, che tiene comunque incassi buoni nel weekend e si avvicina ai 5 milioni di euro per quanto riguarda l'incasso globale. La rosa purpurea. E allora vi abbiamo lasciato ascoltare un po' le note davvero originali della colonna sonora della Misura del confine, che è il secondo film di cui vogliamo occuparci in questa puntata della Rosa Purpurea. La Misura del confine canta Petra Magoni, una voce davvero straordinaria, con una serie di canzoni originali che dipingono, sottolineano questo film, che di pittorico ha già molto e che è un film italiano, un film, l'avete sentito nei titoli di testa, si parlava di film a basso budget, no budget addirittura, come si usa dire per i film che hanno un budget talmente risicato da essere quasi inesistente. È un cinema italiano che deve molto arrangiarsi, soprattutto per produrre i suoi episodi più indipendenti, ma forse è una delle poche vie di fuga che ci sono per realizzare film. Poi bisogna sempre porsi il quesito se il pubblico è pronto a essere così partecipe da andare a vedere un film di grandi potenzialità, ma magari un po' più spoglio, magari meno ricco, e non parliamo chiaramente di questo o solo di questo, ma di tutta una serie di film che stanno per arrivare nelle sale italiane. Diciamo che qualche anno fa ci fu un grande episodio del grande successo del Vento fa il suo giro, che è partito al Cinema Mexico di Milano e è ancora in giro per il mondo, e forse molti si sono immaginati che si potesse davvero continuare a fare solo così un cinema. Beh, quelli sono episodi, poi il cinema ha bisogno di una magia che scaturisce anche dall'impiego di mezzi, ed il cinema italiano in questo momento di mezzi, tranne pochi episodi, ne ha davvero pochi. Chiusa parentesi per dire che La Misura del confine di Andrea Papini però è un film che sta a cavallo, cioè che parte dal no budget e va invece verso una pittoricità davvero interessante. È una storia molto originale. Sono due spedizioni, una svizzera e una italiana, due topografi, l'italiano è addirittura etneo, catanese, e uno svizzero, con le loro squadre che vengono chiamati dall'amministrazione di un piccolo comune delle Alpi per stabilire, vicino proprio al Monte Rosa tra l'altro, per stabilire i nuovi confini tra i due stati, perché i ghiacciai si sono mossi, i corsi d'acqua non sono più dove erano, insomma la natura si muove, i confini si muovono con la natura. Arrivati sul posto però gli svizzeri, perché gli italiani prudentemente, visto il maltempo, si erano rifugiati in una baita di montagna, in un rifugio in altura, gli svizzeri trovano una mummia e chiaramente c'è subito questo momento di grande emozione per questo ritrovamento inatteso. L'uomo non è morto sul ghiacciaio. Sì, ma almeno è antico. Questo vediamo dopo. E come ci è arrivato? Qualcuno ce l'ha portato. Professore, ma perché sostiene questo? Perché se fosse morto sul ghiacciaio, il suo sangue si sarebbe congelato subito, lasciando tracce diverse da quelle che sto rilevando ora. Un delitto? Pare di sì. Con uno spillone, qui, dietro la nuca. E avete sentito, questa era la strategia, e però invece succede qualcosa. Proprio durante questo ritrovamento, un fulmine, durante appunto questo temporale, colpisce uno dei ricercatori svizzeri, che riparano in gran corsa proprio nel rifugio alpino. Sì, qui è il Vigevano. Abbiamo un'emergenza. Sì. Mi pare di sì. No, un fulmine. Ho chiamato. L'elicottero deve venire a prendere domani mattina. Ci mettono meno così partono oggi a piedi. Come sta? Meglio. E nel rifugio Vigevano, appunto, comincia un altro film, perché le due squadre si trovano, tra l'altro con questa mummia che viene messa nel frigorifero congelatore del Vigevano, e cominciano anche le analisi. Comincia un giallo, sostanzialmente, si apre un altro film. Cosa potrebbe essere successo? Avete visto, è stato sentito, è stato ucciso con uno spillone nella nuca. Di quand'è questa mummia? Di chi poteva essere? Cosa è successo? Qual è il giallo che sta dietro? Un giallo che piano piano viene dipanato, non vi stiamo a dire ovviamente in che direzione, ma è una direzione molto interessante, perché coinvolge da vicino tutte le persone che in questo giallo da camera a questo punto ne sono coinvolte. A questo punto noi, lasciandovi proprio alle tinte gialle del film, che sono però un giallo di discussione, un giallo di quasi da commedia, andiamo a sentire l'autore di questo film, Andrea Papini, che aveva fatto un film qualche anno fa che si intitolava La velocità della luce, molto apprezzato sempre nel circuito indipendente. Adesso arriva con La misura del confine. Le difficoltà le abbiamo raccontate, cosa si aspettava da questo film, cosa voleva far venire fuori, sentiamo. Il film parte col desiderio di narrare la montagna e il suo fascino. Il film parte col desiderio di narrare la montagna e il suo fascino, e che attira tante persone che la vivono in modi diversi. Su questo scheletro, su questa struttura, abbiamo inserito una storia di 11 personaggi che si ritrovano per celebrare un morto, di fatto. E da questo punto di osservazione così inusuale, come un rifugio a 3.000 metri che volge sulla, nel nostro caso dal Monte Rosa, sulla pianura padana, permette delle riflessioni sul nostro modo di essere contemporaneo, sui problemi che sono legati al lavoro, alle relazioni, in un contesto che le esaspera. I nostri personaggi vivono in montagna col computer, con le pennette, e riscoprono attraverso antichi libri dei libri dei rifugi passioni e avvenimenti del passato che sono incapaci di decifrare, perché ormai c'è una specie di insensibilità emotiva e morale, diciamo, a comprendere quello che è avvenuto e che cosa siamo, su cosa appoggiamo le nostre idee. Durante la conferenza stampa si è parlato molto, insomma, di quanta difficoltà e quanta fatica questo tipo di film e questo tipo di esercizio, questo tipo di cinema, siamo qui al Messico di Milano, cinema benemerito, facciano per sostenersi l'uno con l'altro. Se tu avessi avuto un budget, questo è un film quasi no budget, più che low budget, se tu avessi avuto un budget anche medio-basso per il cinema italiano, ma è comunque consistente, cosa avresti fatto, cosa avresti cambiato? Andava rimpostato tutto in un altro modo, quindi di fatto si andava fatto un altro film. Ed è Andrea Papini, regista della Misura del Confine. Esce questa settimana in tre grandi città italiane, Firenze, Roma, Torino, dalla settimana prossima al Cinema Mexico di Milano, e poi ovviamente, come sempre, farà molto il tantam, perché per questi film è assolutamente decisivo. Andiamo a giocare con la prima traccia del gioco di oggi, del film misterioso che dovrete indovinare a partire da questo primo indizio. I miei non vedevano l'ora che me ne andassi di casa. Sei destinato a un futuro grandioso. Una ben gravosa aspettativa per un neonato di 8 giorni. Se avete già indovinato di che film si tratta, la Rosa Purpurea @radio24.it, inserite come sempre il vostro indirizzo privato per poter poi accelerare le eventuali operazioni di spedizione del Blu-ray di questo film. Più tardi avrete un altro paio di possibilità. E adesso parliamo di un grande beniamino del pubblico giovanile e femminile soprattutto, ma che sta cercando di studiare da star. È forse il film più atteso della settimana in termini di botteghino, andremo a vedere poi lunedì come saranno andate le cose, sicuramente l'unico colossal americano che arriva sui nostri schermi con delle ambizioni durante questa settimana, escluso ovviamente Fast and Furious 5, però qui siamo ben oltre la saga ormai. Stiamo parlando di Come l'acqua per gli elefanti, Water for Elephants, il titolo originale, per una volta non tradito dal titolo italiano, anche se c'è un suono, un'assonanza con Come l'acqua per il cioccolato. Qualcuno di voi forse non più giovanissimo ricorderà un film di quasi una ventina d'anni fa che si intitolava così. E la star in questione, il giovane beniamino che sta studiando da star, è Robert Pattinson, il vampiro di Twilight, che rivedremo presto anche nel ruolo che gli ha dato notorietà mondiale, ma che cerca di uscire un po' appunto da vampiri, licantropi e situazioni estreme per diventare un attore a tutto tondo. Ci aveva provato già con Remember Me, adesso lo troviamo con Come l'acqua per gli elefanti. Non si stacca molto Robert Pattinson dall'icona del bello maledetto, o comunque di amori, in questo caso non è tanto maledetto, più che altro di amori impossibili da inseguire, che sono un po' la sua matrice, la sua specialità. Però lo fa nell'ambito, nel contesto di un film a tutto tondo che muove dagli anni 30, anzi comincia in realtà con un vecchietto che si perde davanti a un circo, ai giorni nostri più o meno, quando gli viene chiesto cosa ci facesse lì, da dove è fuggito, e si scopre che è fuggito da una casa di riposo, si scopre che questo vecchietto è stato un grande del circo tanti tanti anni prima. Erano gli anni 30, l'inizio degli anni 30, gli anni della grande depressione americana, e Jakob Jankowski, giovane studente polacco, orfano di entrambi i genitori, aveva abbandonato gli studi e si era buttato, come si faceva all'epoca, in corsa su un treno per cercare di trovare una nuova strada. E su quel treno aveva trovato invece un circo, perché era il treno del Circo Benzini, uno dei grandi maestri circensi più in voga durante quegli anni, che stava appunto trasportando belve e guitti verso la prossima destinazione. Da lì partì la carriera di quest'uomo, che era studente veterinario e che si affermò proprio, come ha detto, agli animali. Se non che, ecco l'amore maledetto, l'amore impossibile, si innamora ovviamente di Marlena, Reese Witherspoon, la donna del capo, niente meno, il capo è uno molto violento, ed è tra l'altro Christoph Waltz, il tarantiniano Christoph Waltz, ed ecco che insomma il dilemma c'è, il giovane, la bella, il cattivo e il tentativo di tenere tutti insieme. Sentiamo la clip. Vai a Salem, c'è un hotel, non è molto lontano. Ma non fermarti più di una notte. Vieni con me. Che cosa? Tu credi che non ci sia niente per te lì fuori, ma non è vero. Sei tu che non vuoi che ci sia. Jacob, tu non capisci, non posso. Mi troverà comunque. Marlena, meriti una vita migliore di questa. Se quella vita sia con me o no, o se tu mi ami o no, non importa. Ma deve cominciare adesso. Questo è il momento in cui Marlena e Jacob decidono di provare a scappare da un circo, e soprattutto da una vita che però li inseguirà fino alla fine. Film con momenti molto interessanti, toccanti, con un elefante straordinario, un'elefantessa straordinaria fra i protagonisti, per cui tutti chiaramente impazziranno, però un film che non si distacca molto dal cliché appunto del film d'amore, anche se entra dietro le quinte di una serie di regole non scritte del circo, che sono molto interessanti soprattutto per i non adepti. Comunque un grande film d'amore, una grande storia sentimentale per questo weekend al cinema. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, terza parte della Rosa Purpurea e il nostro galoppo all'interno del weekend cinematografico continua. Dopo aver parlato anche di Robert Pattinson, di Come l'acqua per gli elefanti, torniamo in Italia, come dicevo in apertura, questo è un weekend molto molto denso di cinema italiano, di film italiani, di tutte le fogge e anche di tutte le riuscite. C'è appunto Il primo incarico, che è un altro film da segnalare, con Isabella Aragonese. Anche questo è un film che esce nel circuito più de sé. Appunto abbiamo anche questo film di Massimo Coppola, Hai paura del buio, però noi vogliamo soffermarci su un film di cui si è parlato perché cerca di sposare la commedia con un po' non dico la denuncia sociale, ma un clima insomma che voglia raccontare anche in questo senso l'Italia di oggi. Parliamo di Senza arte né parte, il film è ambientato nella splendida terra salentina, che però non sfugge dalla crisi, come del resto tutto il resto d'Italia. Un premiato pastificio deve chiudere. Ricordo un episodio, un passaggio di un film di qualche anno fa con Michele Placido. È un ricordo così che adesso, durante la nostra trasmissione, mentre parliamo con Boris Sollazzo, cerco di farmi venire in mente, almeno che non venga in mente a lui. Pastificio, insomma, in crisi. Lì era un gommificio in crisi, loro si mettevano a fare la pasta. Questi invece non fanno più la pasta, si mettono a fare i curatori di opere d'arte. Perché? Perché questa squadra di operai viene praticamente licenziata e tra questi però qualcuno trova la possibilità di andare a fare il guardiano proprio nel vecchio pastificio di una collezione d'arte che la moglie del pastaio ha ereditato, e quindi questi operai si trovano di fronte a queste bellezze artistiche e forse imparano anche un po' ad amarle. Questo un po' in breve il sunto del film. Noi sentiamo un attimo il trailer. Ma tu lo sai quanto vale quell'uovo? 45.000 euro. O te? Sì, la gallina che l'ha fatto quanto costa? Non me le altre. Ma perché non le facciamo davvero ste uova? E ce le vendiamo per buone. C'ha ragione. Chi ci vuole fare uno scarpone con dentro una mezza bottiglia di whisky? So creativo. Ci mettiamo a vendere le opere d'arte false? No, come vendiamo i figli? E allora questo era appunto la clip estratta dal trailer di Senza arte né parte. Boris Sollazzo, eccoti di nuovo qui con noi per parlare di questo film italiano. Nella stagione della commedia italiana, che cerca di caratterizzarsi come un unicum, questo lo si vede anche da piccoli dettagli, Boris. Per esempio la locandina di Senza arte né parte, se la vedi a prima vista, sembra quella di altri 100 film italiani, 100 no, però 10 film italiani usciti quest'anno. Si usano gli stessi caratteri, le stesse grandezze, gli stessi colori, gli stessi sfondi, quasi a cercare di dare, questo potrebbe essere anche positivo in termini di marketing, un'idea della commedia italiana fatta così, che è quella, no? E questa è una lettura che invito i nostri ascoltatori sempre a fare. Questo per dire che però forse questo film ha qualcosa di leggermente diverso magari rispetto ad altre commedie che hanno avuto grandissimo successo, e sposa però, per esempio rispetto al recente film sui precari con Luca Argentero, sposa invece la voglia anche di dire qualcosa della nostra società. Assolutamente sì, intanto provo a vincere il concorso anche senza il solito DVD della Rosa Purpurea del Cairo, credo che fosse Il posto dell'anima, quello che tu citavi prima per quanto riguarda Il gommificio in crisi con Michele Placido. Penso proprio di sì, effettivamente mi mancava il titolo al momento, ma ricordavo questa cosa della pasta, effettivamente è quello. Perché c'è questa scena in cui gli scioperanti mangiano pasta, insomma, per cercare di sopravvivere alla serrata. Per quanto riguarda Senza arte né parte, direi che in qualche modo forse nel bene e nel male il titolo è anche la recensione del film. Hai ragione a assimilarlo, forse un po' c'è chi dice no, ma anche a differenziarlo, perché ai precari qui c'è una linea di commedia molto più forte. E c'è anche una critica non solo sociale, ma anche creativa a quello che è l'arte contemporanea oggi. La fa tra l'altro Giovanni Albanese, che è un artista visivo, quindi la fa anche con una certa autoironia, perché questi precari, trovandosi senza lavoro, decidono di truffare l'elite, quindi i proletari contro, tra virgolette, i nuovi padroni, quelli magari un po' più radical chic, ben fotografati dal Nini Bruschetta, gallerista romano. E sì, c'è questa critica sociale, c'è anche questa parte di commedia. Ho l'impressione che né nell'uno né nell'altro caso ci sia mai il salto di qualità. È un film gradevole, che però non riesce mai a fare quel passo in più, né in termini di coraggio né in termini di commedia, perché appunto cerca di tenersi in equilibrio. E il film è gradevole, è piacevole, ma nulla di più. E sono d'accordo con te che però individua ormai un nuovo genere nel cinema italiano, che è quello di ridere delle nostre sfortune, di ridere magari con una punta d'amarezza. Che non sarebbe neanche male, no? Perché se la nuova stagione del cinema italiano e dei grandi successi della commedia italiana di quest'anno non è solo i one man show alla Checco Zalone, per carità, servono anche assolutamente anche quelli, ma insomma non è solo quello, ma è anche il tentativo di rifarsi alla più bella tradizione del nostro cinema, che è quella della commedia all'italiana, e quindi di una commedia salace, pungente, che però prendesse in giro e soprattutto stigmatizzasse i nostri difetti. Ecco, forse manca ancora, diciamo, che non vogliamo essere troppo cattivi o esigenti o frettolosi, però manca ancora questa ondata, quel graffio che ovviamente, forse perché ti devi chiamare Monicelli o ti devi chiamare Risi eccetera, da quelle parti invece c'era sempre. Assolutamente d'accordo, manca proprio quella punta di cinismo che un cinema italiano forse un po' troppo buonista, che non si fida un po' troppo del proprio pubblico, riesce a dare il graffio, che secondo me c'è chi dice no, c'è un po' di più, e che in Senza arte né parte invece rimane a livello proprio del manifesto che raccontavi, cioè rimane troppo attaccato all'esigenza forse di strizzare l'occhio al mercato. In questo caso invece serviva un passo in più, una cattiveria in più, che appunto è quella propria dei Monicelli e dei Risi, e che forse raggiungeremo. In fondo questo genere è un neonato. Assolutamente, e ha soprattutto trovato già il suo pubblico, che è un gran bel risultato, quindi portiamo a casa questo risultato per il momento, e nel frattempo lavoriamo a far sì che questi film, come dire, si impongano per una loro capacità più universale di essere, come dire, visti, capiti, letti, anche soprattutto anche all'estero, per esempio, che potrebbe essere un mercato di conquista. Quando sai far ridere di te stesso, gli altri lo capiscono subito, e quindi diventa una cosa molto importante. Grazie a Boris Sollazzo per averci ascoltato e aiutato durante questa settimana. Noi alla prossima puntata ci risentiamo. Ciao Boris. A presto Franco. È arrivato il momento di giocare di nuovo con il nostro Blu-ray Game di questa settimana. Ascoltiamo la seconda clip. I tuoi piani falliscono sempre, sei prevedibile. Tu trovi questo prevedibile? Alligatori, sì. La Rosa Purpurea @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, più tardi l'ultima possibilità, l'ultima clip di questo game. È archiviata la carrellata, come sempre fatta di scelte, perché non parliamo di tutto, parliamo di molto ma non di tutto, fatta di scelte, dicevo, dei film nel weekend al cinema, quindi quelli che potete andare a vedere. Voglio ricordare tra l'altro anche fra i film italiani anche questo Tatanka, che personalmente non ho ancora visto, mi riprometto di vederlo, ma di cui gente fidata mi ha parlato molto bene. Tatanka di Giuseppe Gagliardi, con il pugile Clemente Russo protagonista del film, un film di pugilato ambientato nei feudi della Camorra, un film mi dicono molto intenso, come dico, ve lo voglio segnalare perché fa parte di questa incredibile carrellata, almeno 4-5 film italiani nuovi in questo fine settimana. Beh, dicevo, archiviata questa parte, parliamo invece del film del cinema che potrebbe arrivare, che sarà, perché sono cominciate proprio durante questa settimana a Bologna le riprese di un film che si intitola Vai con Liscio. Mai titolo fu più un programma di questo film, ed è molto interessante e divertente perché non è né una commedia né un film musicale né un film che diciamo così vuole raccontare solo questo aspetto della cultura territoriale italiana, ma è praticamente un horror che racconta di questa orchestra da balera assediata dagli zombie, che riesce a tenere lontani solo suonando, andando avanti a suonare a sfinimento, a ripetizione, ad libitum, il liscio. E allora vai con la mazurka, se no gli zombie ti mangiano. Insomma, una storia interessante perché racconta un po' come forse le nostre tradizioni, il nostro vero folk, possono aiutarci a non perderci nel mare del consumismo e della società cosiddetta moderna. Però noi abbiamo mandato in avanscoperta sul set ai primi giorni di Chuck la nostra Chiara Pizzimenti, che ci racconta Vai con Liscio. La mazurka di periferia. È la mazurka di periferia, scaccia pensieri, canta allegria. Di difficile da immaginare, ma il liscio, oltre alla malinconia, tiene lontani anche gli zombie. O almeno così succede in un film, Vai col liscio, le riprese tra maggio e settembre. Due orchestre sono perennemente costrette a suonare una sola canzone, la mazurca di periferia ovviamente, per evitare l'assalto dei morti viventi. Con la mazurca di periferia, ti viene la voglia di fare l'amor. Vai! La produzione non è ricca, appena 15.000 euro per un corto che aspira ad essere medio lungometraggio. Il cast però è fatto di nomi noti: Valerio Mastandrea, Bob Messini, Andrea Mingardi, la iena televisiva Pif, Elisabetta Cavallotti e Raul Casadei. Il sapore è grottesco, fra Non si uccidono così anche i cavalli e il Rocky Horror Picture Show. Così lo spiega il regista Pierpaolo Paganelli. Il piano è alternare il grottesco e un po' di comicità con l'horror molto molto forte. Raul Casadei che cosa fa? Canta? No, lui non canta e non canterà mai, non ha mai cantato, questa è una cosa che abbiamo scoperto. Casadei farà un cameo importante perché ci spiegherà agli spettatori come ballare il liscio. Antagonista del Re del Liscio sarà Andrea Mingardi. Sarei in attesa in questo locale di cantare un brano che ho portato a Sanremo con i Blues Brothers, solo che non tocca mai a me. L'anti Raul Casadei in questo film? Beh, io se sono amico fraterno di Raul, ma sono sempre stato suo nemico acerrimo, perché chi viene dal blues, dal jazz, dal soul, dal rock and roll, chiaramente sente olezzo di liscio nell'aia, come se fosse criptonite, ecco. Sempre pronti a suonare gli altri, compreso Valerio Mastandrea, protagonista anche del film di Marco Tullio Giordana su Piazza Fontana. In questo caso ha accettato per amicizia. Per ignota amicizia, perché poi io e il regista non ci conosciamo in realtà, siamo parlati due volte e gli ho detto di sì. Pronto a entrare nel mondo del liscio? Pronto a entrare nel mondo del liscio, sì. Anche a ballare? Non credo, no. Nemmeno a cantare, forse potrei suonicchiare qualcosa, ma ballare e cantare credo proprio di no. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, quarta parte del nostro programma, come sempre dedicata integralmente alle visioni domestiche, quindi al cinema da vedere in casa, attraverso la televisione, attraverso l'on video. Attraverso la televisione, dicevamo, come sempre a farci da partner in questo nostro spazio, sono gli amici del settimanale Film TV e noi abbiamo affidato a Sara Sagrati il compito di andare a spulciare nei palinsesti della prossima settimana. Sentiamo cosa ha scelto. Ciao Sara. Ciao Franco, un saluto ai tuoi ascoltatori e ben ritrovati con le segnalazioni di Film TV. Oggi torniamo a parlare di Marco Ferreri, di cui abbiamo parlato appunto qualche settimana fa, perché Rai Movie torna a riproporre un suo film che è Diario di un Vizio, a 00:10 di lunedì 9 maggio. Diario di un Vizio, oltre a essere un ottimo film che parla di solitudine e di vizio appunto come dal titolo, ha anche la caratteristica di avere un cast molto particolare, perché il protagonista è Jerry Calà, forse nel suo unico ruolo in un film d'autore, mentre la protagonista è bravissima, tra l'altro, è Sabrina Ferilli in una miss anche molto svestita. Per cui assolutamente da non perdere, Rai Movie, 00:10, lunedì 9 maggio. E allora Diario di un Vizio, lunedì su Rai Movie a 00:10. E invece un intero omaggio a un grandissimo autore che sarà presto omaggiato anche dal Festival di Cannes per la seconda proposta. Mercoledì 11 maggio comincerà il Festival di Cannes, quest'anno con una novità, perché da quest'anno verranno consegnati il giorno della cerimonia di apertura una palma d'oro speciale alla carriera, e proprio quest'anno cominciano con Bernardo Bertolucci. E proprio per questo motivo in questa settimana molte reti televisive faranno un omaggio a Bertolucci, sia la 7 di Rete 4, ma soprattutto Iris, che proprio in data 11 maggio dedica tutta la serata ai suoi film, partendo dalle 21:15 su Iris appunto The Dreamers, i sognatori, continuando con il suo primo lungometraggio che ha le 23:20 L'acqua mare secca, all'1:05 Il tè nel deserto e alle 3:25 uno forse dei suoi ultimi capolavori che è L'assedio. Ovviamente abbiamo troppo poco tempo per raccontare tutti i film, la trama o il perché sono importanti da vedere. Sicuramente The Dreamers forse è il più interessante, ma comunque è un bellissimo excursus per poter fare il nostro personale omaggio a Bernardo Bertolucci. E allora l'omaggio a Bernardo Bertolucci, tutta una notte su Iris, mercoledì a partire dalle 21:15 fino a notte inoltrata. Grazie a Sara Sagrati, è l'ultima volta che ci sentiamo perché per Sara le strade si dividono rispetto alla settimanale Film TV. Buona fortuna, in bocca al lupo per il tuo futuro. Franco, ti ringrazio tanto, spero che non sarà l'ultima occasione per sentirci e faccio il mio piccolo appello, saluto tutti quanti, vi ringrazio tantissimo e continuate a seguire La Rosa Purpurea e a leggere Film TV. E allora grazie a Sara Sagrati, agli amici di Film TV che troveremo la prossima settimana. Noi a questo punto siamo alla terza e conclusiva traccia misteriosa del Blu-ray Game di oggi. Sentiamo. Pronto? Si dice pronto. Oh. Pronto? Così? Beh, questa è una battuta che è diventata epocale, per cui forse vi aiuterà definitivamente a scoprire, se non l'avete già fatto, di che film si tratta e provare a vincere il Blu-ray. La Rosa Purpurea @radio24.it se avete indovinato di che film si tratta. Noi a questo punto invece dobbiamo fare un passo indietro di 7 giorni, perché avevamo giocato la scorsa settimana con un film che è una saga, che è un colossal, che è uno dei film, dei filoni cinematografici che hanno marchiato a fuoco quest'ultimo decennio. Stiamo parlando di Harry Potter, questa era la clip. Sono ancora qui, ma voi continuate pure. Non vorrei fare il guastafeste. Che c'è che non va? Che non va? Non c'è niente che non va. Non secondo te, comunque. Senti, se hai qualcosa da dire, non essere timido. Sputa fuori. D'accordo, sputerò fuori. Con questa voce era impossibile non indovinare Harry Potter e i doni della morte. Questo è il film con cui avevamo giocato la scorsa settimana, che arriva in un video per la Warner Bros. Tra l'altro con anche un ricco bottino adesso per voi, perché la Warner, oltre alle consuete copie del Blu-ray di Harry Potter e i doni della morte, ci ha anche dato un po' di gadget per premi di consolazione. Allora io vado a leggere i due vincitori del film, ne leggo uno perché un altro non ci ha mai detto come si chiama. Vabbè, c'era la mail ma non c'era, adesso lo stiamo rintracciando. Quindi ha vinto Giuseppe Bolognesi di Brugherio, vicino Milano ma provincia di Monza Brianza, e ha vinto un altro ascoltatore che è di Carbonia, e questo è un indizio. Se ci sta ascoltando, ci scriva come si chiama, perché sennò a Carbonia abbiamo anche il suo indirizzo privato ma non abbiamo il nome, dovremmo spedire un po' nel vuoto un Blu-ray e non lo faremo sinceramente. Quindi se in qualche giorno ci fa sapere di chi si tratta, questa è una delle cose più bizzarre che ci è capitate in questi anni. Poi ci sono tutta una serie invece di bellissimi gadget che saranno spediti a chi è arrivato secondo, terzo, quarto in velocità per indovinare questo film che il nostro Claudio Pofi, il recensore della Rosa Purpurea per quanto riguarda l'home video, ci racconta così. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. L'edizione di Harry Potter, I Doni della Morte parte 1, è in grande stile sia per il DVD che per quanto riguarda il Blu-ray. Noi naturalmente privilegiamo alta definizione, soprattutto perché questo è uno dei film più scuri, più bui cinematograficamente parlando. Il Blu-ray offre la stessa traccia audio del DVD, una Dolby Digital multicanale interessante, ma c'è sicuramente quella inglese DTS ad alta risoluzione, e naturalmente il Blu-ray offre c'è una grandissima offerta per quanto riguarda gli extra su tutti, sicuramente questo Maximum Movie Mode, che è praticamente la possibilità di visionare il film immagine nell'immagine per approfondire la lavorazione del film. Ci sono tantissimi approfondimenti sugli effetti speciali, le musiche, le scene inedite, c'è addirittura un'anteprima della parte seconda dei Doni della Morte. Ricordo che l'edizione Blu-ray include comunque il DVD e anche la copia digitale. Le nostre recensioni si spingono indietro, molto indietro, al 1950, un capolavoro assoluto della storia del cinema come Eva contro Eva di Joseph Mankiewicz. Ascoltiamo. Sai cosa penso di questa tua ossessione di essere vecchia? E ora vuoi addirittura farmi una scenata di gelosia solo perché ho passato 10 minuti a parlare con una bambina? 20! 30, 40 minuti, che importa? Una bambina è una signorina con 1000 virtù, e ti avverto che sono arcistufa della signorina e delle sue virtù. Margot Channing, osannata stella del teatro a Broadway, incontra la giovane ammiratrice Eva Harrington, assunta poi come segretaria La giovane entra subito nelle grazie dell'attrice, riuscendo a insinuarsi sempre più nel mondo artistico dentro e fuori la vita di Mago, arrivando a sostituirla sul palco con notevole successo. Ma l'ambiziosa Eva, che ha finalmente raggiunto il suo obiettivo, sarà ben presto vittima in egual misura di una fedifraga amica. Sceneggiatura tagliente che negli anni 50 tratteggiava la guerra per la scalata al successo, quello da raggiungere a ogni costo. L'uscita Blu-ray da Fox Home Entertainment, la pellicola è restaurata di notevole resa rispetto al DVD. Ci sono alcuni momenti in cui si riscontra un inferiore contrasto. La traccia in italiano di TS è sicuramente interessante, ma addirittura ad alta risoluzione per l'inglese. Ci sono tanti extra, tra cui segnaliamo vari commenti al film, tra cui quello dell'attrice Celeste Hall, ma c'è addirittura la colonna sonora isolata dai dialoghi e addirittura filmati promozionali dell'epoca. E allora questo è il ricco bouquet di Eva contro Eva. Come sempre capita con il cinema, si salta di palo in frasca, soprattutto quando si abbraccia un po' tutta la storia. E da Mankiewicz e da Bette Davis passiamo ad Aldo, Giovanni e Giacomo con la banda dei Babbi Natale. Dottoressa, ma lei non mi ha capito, io sono un delinquente vero, io sono colpevole, io sono il capo di questa banda, questi qua li conosco da quando eravamo ragazzini, il Faina, il Cicalone, il Mandrake, viva poco, io sono il capo di questa banda. Ma che cazzo sei? Cioè, li riconosco, come chi sono? Io sono Spider-Man da Maiana. Ma leve da buffo. A Milano agisce indisturbata una banda di ladri di appartamenti, la cosiddetta banda dei Babbi Natale. Proprio la notte della vigilia, tre individui, Aldo, Giovanni e Giacomo, amici di vecchia data, vengono sorpresi dalle forze dell'ordine mentre stanno apparentemente svaligiando una casa. Presso il commissariato ciascuno racconterà dal proprio punto di vista gli avvenimenti per dimostrare la propria innocenza. Commedia briosa, ricca di momenti esilaranti, che ha salutato il grande ritorno del trio al cinema. Da Medusa Film Home Entertainment l'uscita a un video con il DVD, ma soprattutto il Blu-ray, che offre la visione identica a quella della sala cinema. Eccellente la qualità video per entrambi, il Blu-ray offre l'audio di TS ad alta risoluzione in italiano, ci sono alcuni extra interessanti, su tutti sicuramente un making of e le scene tagliate. E allora grazie a Claudio Poffi che ci ha accompagnato con la consueta perizia nelle uscite a un video di questa settimana. Alla prossima Claudio. Ciao, a presto. E con le segnalazioni un video si chiude come sempre la puntata della Rosa Purpura. L'appuntamento va la prossima settimana divisa in due. Sabato puntata tradizionale alle 18 con tutte le novità al cinema. Domenica alle 15, anziché la replica, puntata speciale in diretta dal Salone del Libro di Torino per parlare del rapporto fra cinema e letteratura. Appuntamento alla prossima settimana.